Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea, che cioè tratta temi europei ma anche giornali principalmente europei, anche se cerchiamo con l'aiuto magari di qualche sito di andare anche oltre i confini europei per vedere uno sguardo il più possibile lontano, che magari è anche quello più obiettivo. E questa settimana però partiamo da un articolo che è stato tradotto da Internazionale è l'edizione in edicola da ieri, è un articolo apparso su Le Soir, che è un quotidiano belga di François Mathieu, che si intitola La partita persa del fisco europeo. Un paio di settimane fa, lo ricordo perché ero uno dei giorni in cui ero di turno per la rassegna stampa dei giornali italiani, si era parlato molto di queste mega multe per elusione fiscale date a colossi, soprattutto americani, della tecnologia. È una delle tante sfaccettature di queste appunto battaglie del fisco europeo, e scrive quindi Le Soir: quella sull'armonizzazione del fisco in Europa è una battaglia persa in partenza. Recentemente la Commissione europea ha dichiarato illegale il regime fiscale introdotto dal Belgio nel 2005 per convincere le multinazionali a installarsi nel paese. Eccole qui le multinazionali. Le aziende che hanno goduto dei vantaggi del fisco belga dovranno versare circa 700 milioni di euro di tasse arretrate. C'è da chiedersi se l'Europa voglia davvero mettere fine a queste discutibili pratiche fiscali. L'atteggiamento della Commissione nei confronti del Belgio sembrerebbe suggerire di sì, ma non bisogna dimenticare che quando alcuni documenti dei gruppi di lavoro europei, in particolare il codice di condotta, hanno rivelato le complesse strategie usate per nascondere le informazioni sugli accordi tra le aziende e gli stati, l'Europa, fatta eccezione per la Commissione, ha continuato a fare finta di niente. Come avete insomma intuito, è un problema sia di quelli che riguardano il fatto che su certi temi è difficilissimo mettere d'accordo tutti gli stati, ma poi soprattutto il fatto che il fisco viene usato come leva competitiva per i paesi per attrarre le aziende, offrendo loro condizioni favorevoli. Lo ha fatto per moltissimi anni l'Irlanda, ora vediamo che lo fa il Belgio, e le aziende dove non possono perché non vengono loro offerte queste condizioni spontaneamente, ricorrono poi a complessi sistemi appunto di elusione fiscale. Veniamo però all'altro grande tema europeo, perché dalla Germania poi ha scatenato dibattiti in tutta Europa e non soltanto, che è quella delle violenze che ci sono state a Capodanno in Germania, in particolare a Colonia. La cosa che è apparsa subito strana è che di queste violenze e molestie sessuali a danno delle donne si è venuti a conoscenza con qualche giorno di ritardo, e questa è una delle ragioni per le quali il capo della polizia di Colonia si è dimesso, o è meglio è stato dimesso, e però ancora adesso ci sono appunto molti punti oscuri. Allora Spiegel, che è uno dei due settimanali di attualità tedeschi, l'altro è Stern, ha pubblicato questa storia che Internazionale ripubblica integralmente nel numero di questa settimana, e spiega appunto che nella notte di Capodanno nella città tedesca molte donne sono state aggredite e derubate, per lo più da stranieri. Questi fatti hanno scatenato un dibattito sull'immigrazione e sui rifugiati che rischia di cambiare la Germania. E come già avevamo detto nella scorsa settimana, perché comunque ce ne eravamo già occupati, tutto il po' la cosa strana è che naturalmente è successo tutto a pochi giorni da quel famoso messaggio della cancelliera Angela Merkel, messaggio di fine anno, quindi di bilancio del 2015 e di auguri per il 2016, che era stato addirittura naturalmente pronunciato in tedesco ma poi tradotto con dei sottotitoli anche in arabo, ed era sembrata l'ennesimo segnale di volontà della cancelliera di questo governo e della Germania tutta, tutto sommato nella sua maggioranza, di restare aperta all'immigrazione. Questa vicenda di Colonia, come spiega l'articolo di Spiegel, rischia di cambiare molte cose. A proposito di paesi, anche in questo caso ce ne siamo già occupati, dove succedono cose che hanno aspetti preoccupanti, c'è la Polonia. E allora WProst, che è un settimanale anche qui di attualità polacco, in questo caso la traduzione la trovate anche su voxeurope.eu, il sito che sapete cito sempre, dove si fa questo lavoro di monitoraggio, un po' come facciamo noi, della stampa internazionale su temi europei, spiega che appunto la Polonia in questo momento potrebbe dire che ha i ferri corti con l'Europa. L'Unione Europea sta cominciando a reagire alle recenti mosse del governo ultraconservatore polacco, che ha ridisegnato la composizione della Corte Costituzionale e ha preso il controllo di radio e TV pubbliche. Il 13 gennaio la Commissione Europea ha annunciato un'inchiesta per verificare che i provvedimenti adottati da Varsavia non siano in contraddizione con i valori democratici dell'Unione. Per nulla intimiditi, scrive il settimanale, i leader del partito al governo, che si chiama, pensate, Diritto e Giustizia, hanno accusato Bruxelles di ignorare la portata delle riforme e di avere tendenze di sinistra. D'accordo con le posizioni del PiS, che appunto è l'acronimo di questo partito in polacco Diritto e Giustizia, scrive Wyprost questo settimanale, solo gli ingenui possono pensare che Berlino e Bruxelles siano interessate alla Corte Costituzionale polacca o alla TV pubblica. Ci sarebbe cioè comunque una preoccupazione non tanto per veramente le conseguenze per soprattutto i cittadini polacchi, ma molto cinicamente su questa deriva pericolosa di uno Stato che, polacco che diventa, come abbiamo visto anche altre volte nelle scorse rassegne, una sorta di democratura, perché quando un partito di governo con una fortissima maggioranza mette mano per esempio alla libertà di stampa, c'è sempre da preoccuparsi di qualsiasi credo posizione politica o partito politico si sia. Ma passiamo invece a questioni più economiche. La Süddeutsche Zeitung ha dato spazio a Peter Praet, che è il capo economista e membro del comitato esecutivo della BCE, e ha spiegato che il piano di acquisto di titoli pubblici e privati attuato dalla BCE, il famoso quantitative easing, con un volume, pensate, di 60 miliardi al mese fino al marzo 2017, è efficace perché i vantaggi sono superiori ai costi. Quindi una sorta di non autocritica, però di ammissione, che è chiaro che quantitative easing, come del resto è successo anche negli Stati Uniti, non è così una misura a costo zero, però appunto i costi sarebbero inferiori ai vantaggi. Secondo Praet, la resistenza del sistema bancario a shock negativi è notevolmente migliorata dalla crisi, e qui naturalmente dovremo metterlo alla prova e incrociare un po' tutte le dita, perché di shock negativi già in questo scorcio di 2016 ne abbiamo avuto tanti. C'è la grandissima incognita del prezzo del petrolio che continua a scendere, ma ci sono naturalmente anche tutte le questioni del terrorismo. Torniamo anche un attimo sull'altro grande tema, quello della Grecia. Sempre la Süddeutsche Zeitung ha pubblicato un'intervista a Christine Lagarde, che è il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, che ha spiegato che la decisione del fondo sull'eventuale partecipazione a un terzo piano di salvataggio della Grecia non arriverà prima della prossima primavera, o addirittura forse nel secondo trimestre. Secondo Christine Lagarde, la sostenibilità del debito e la riforma delle pensioni saranno cruciali per la scelta del fondo. Ricordo sempre, anche quando magari trovo qualche articolo sulla stampa italiana sulla Grecia, che sulla questione della Grecia è sceso una specie di silenzio, ma Tsipras, il governo Tsipras, è in difficoltà. Queste riforme, che erano un po' una condizio sine qua non, in estate sembrava fosse l'unico argomento di cui fosse necessario parlare, queste riforme non sono ancora state attuate. La Grecia continua a essere un paese profondamente in crisi, soffrono soprattutto i suoi cittadini, una soluzione non c'è, e tra l'altro appunto Christine Lagarde ci dice: noi per ora non vogliamo partecipare a un terzo piano di salvataggio. Il nostro ministro degli esteri Gentiloni, invece, a proposito appunto dell'accenno che abbiamo fatto alle incognite legate al terrorismo, alle tante incognite per il 2016, tra cui anche quella del terrorismo, ha dato un'intervista alle Figaro spiegando che ci vuole una coalizione internazionale con una fortissima presenza, con la più forte possibile presenza europea al suo interno, per lottare contro l'ISIS in Libia sul modello di quella che opera in Iraq e in Siria. E secondo appunto Gentiloni, se occorrerà tra qualche mese prendere amaramente atto che i libici hanno rinunciato a una prospettiva, alla prospettiva di un accordo di unità per arrivare a un governo di unità nazionale, bisognerà mettere insieme questa coalizione anti-Daesh. Secondo Gentiloni, per il futuro della Libia non ci sono alternative all'accordo tra i due parlamenti di Tobruk e Tripoli, firmato in Marocco, pensate, il 16 dicembre, ma da cui appunto purtroppo attuazione se ne vede molto poca, perché non si sono visti altri tentativi diplomatici altrettanto forti. Un'ultima segnalazione ve la faccio da Libération, un altro quotidiano francese, anche se di posizionato in una, settore un po' diverso da quello di Le Figaro, che è un quotidiano decisamente conservatore, Liberazione è un quotidiano di sinistra, si chiede in un articolo se i nazionalismi trionfanti riusciranno ad affondare l'Unione. Una domanda per il 2016. Abbiamo parlato della Polonia, il partito adesso al governo ha sicuramente vinto puntando molto anche sul nazionalismo, ma è nazionalismo anche quello di chi in Inghilterra vuole la Brexit o magari anche di chi in Grecia tra un po' ricomincerà a chiedere la Grexit. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi ricordo comunque che sul sito di Radio 24 trovate questa, la rassegna di oggi e anche quella delle settimane passate, e se volete potete anche mandarmi un messaggio. Il mio indirizzo è semplicissimo: g.crivelli@ilsole24ore.com. Ancora un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.